24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano l'incontro tra il premier italiano Mario Monti e quello finlandese Katainen. Monti ammette che l'Italia potrebbe ricorrere allo scudo antispread. Katainen chiede una soluzione europea alla crisi. Oggi l'atteso consiglio della BCE, dal quale si attendono azioni decise. Prosegue intanto il pressing di Barack Obama, che ha chiamato proprio Monti. Le imprese italiane diffondono un patto per l'Italia e per l'Europa. E oggi vi parleremo anche dell'azione comunitaria in Africa e avremo un ospite d'eccezione per chiudere, un astronauta europeo. Gli aiuti potrebbero essere necessari, forse in relazione alla lentezza con la quale i mercati comprendono gli sforzi compiuti e i risultati raggiunti. Da Helsinki il premier Mario Monti cede per la prima volta alla tentazione di una richiesta all'Europa, anche se si affretta a precisare che non si riferisce a un salvataggio del paese tout court, ma all'utilizzo del meccanismo antispread. E aggiunge Monti con una frecciata: se ci fosse una migliore governance per la stabilità del mercato del debito, l'Italia sarebbe aiutata de facto. Monti ha parlato dopo l'incontro con il premier finlandese Jyrki Katainen, considerato uno dei falchi rigoristi dell'Eurozona. Katainen ha sottolineato come per affrontare la crisi dei debiti sovrani i paesi debbano proseguire sulla strada delle riforme, ma serve una soluzione europea che dia il tempo ai mercati di valutare i progressi fatti. Dietro le quinte, in furia la guerra di posizione in vista del consiglio direttivo della BCE previsto oggi, sul quale si concentrano aspettative immense. Il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, è sceso in campo invitando la Banca Centrale Europea a non oltrepassare il proprio mandato. I governi sovrastimano le possibilità della Eurotower, ha aggiunto Weidmann. L'esecutivo tedesco ribatte che Berlino è pronta a fare tutto per salvare l'Eurozona, ma entro i limiti di quanto autorizzato dai trattati, e precisa: una licenza bancaria al fondo salvastati non è in cantiere. Monti infine contrattacca: tutti devono rispettare l'indipendenza della BCE, credo che si arriverà a una licenza bancaria per l'ISM. All'Europa servono azioni decisive per evitare una disfatta dell'euro. Il presidente americano Barack Obama continua il suo pressing sul vecchio continente, chiamando il premier Mario Monti, impegnato appunto in una tournée europea per fare il punto sulla situazione nell'area euro. Proprio a Monti, Obama ribadisce il proprio appoggio per un'azione decisa per risolvere la crisi. Il presidente è in contatto regolarmente con i leader europei, afferma la Casa Bianca. Non ritengo che gli europei lasceranno l'euro dissolversi, ma devono prendere misure decise, ha infine aggiunto Obama nel corso di un evento di raccolta fondi a New York. I leader europei devono prendere misure per abbassare i tassi di interesse pagati dai paesi che stanno facendo riforme, a dirlo in un'intervista a Bloomberg il segretario del tesoro americano Tim Geithner, chiedendo anche che i paesi europei facciano qualcosa in più per contribuire a sostenere la crescita nel breve termine. E le borse europee ancora una volta hanno vissuto una seduta volatile nell'attesa delle mosse della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea, ma tra gli investitori si è diffusa la sensazione che gli istituti opteranno per uno status quo fino a settembre. Milano, dopo più cambi di rotta, ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,27%, mentre lo spread ha chiuso in calo a 456 punti. Nel primo trimestre 2012 gli investimenti delle imprese non finanziarie dei paesi della zona euro sono rimasti sostanzialmente sullo stesso livello del trimestre precedente, passando dal 20,7 al 20,6%. Sempre nel primo trimestre il reddito delle famiglie dei 17 paesi dell'area euro è cresciuto dello 0,2% in termini reali rispetto al trimestre precedente, a renderlo noto Eurostat. Il Fondo Monetario Internazionale e l'Unione Europea hanno avviato una missione di 2 settimane in Romania per valutare le riforme realizzate dall'esecutivo di centrosinistra al governo da maggio. Le politiche adottate finora dai governi europei si sono rivelate inefficaci nel risolvere la crisi. E quanto scrivono i leader di CGIL, CISL e UIL, insieme ai colleghi spagnoli, in un appello ai presidenti di Italia e Spagna, Mariano Rajoy e Mario Monti, in vista dell'incontro che avranno oggi. Si esce dalla crisi solo con più Europa, non c'è alternativa credibile e di progresso economico, sociale e civile all'euro. È quanto affermano le organizzazioni delle imprese nella bozza di patto per l'Italia e per l'Europa in 10 punti il servizio. Un patto per l'Italia, l'Europa e l'euro, un appello al governo affinché proceda con più vigore nell'azione riformatrice, a lanciarle tutto il mondo imprenditoriale, da Confindustria all'ABI, dall'ANI, a Rete Imprese Italia, ad Alleanza per le cooperative. La priorità deve essere il risanamento dei conti pubblici, scrivono in un documento, ma anche il rilancio della competitività attraverso l'adozione di ulteriori riforme strutturali e poi puntare di più su ricerca e innovazione e abbassare la pressione fiscale. Un manifesto propositivo che riconosce i meriti del governo Monti, il presidente dell'ABI Giuseppe Mussari. L'espressione del presidente Monti è quella che si comincia a vedere la luce al di fuori dal tunnel. Questo documento non nega questo. Il documento è preoccupato di fare in modo che a questa luce ci si arrivi il prima possibile o che peggio non ci si allontani. A livello europeo, pieno sostegno all'euro, dicono le imprese, è una priorità senza alternative, spiega il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. Siamo europeisti, noi crediamo nell'Europa, ci dobbiamo basare innanzitutto su un euro che sia solido. Per avere l'euro solido abbiamo necessità di una serie di condizioni condivise che in step successivi porterà certamente anche a abdicare a una parte delle nostre sovranità nazionali, ma che comunque risulta necessario. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La Siria sta scivolando verso una tragedia umanitaria su grande scala che ricorda la ex Jugoslavia. È l'allarme lanciato dalla commissaria europea per gli aiuti umanitari Kristalina Georgieva, che chiede di risparmiare i civili, soprattutto le donne e i bambini, e pause umanitarie tra i combattimenti. Da qui l'appello al Consiglio di sicurezza ONU perché agisca per sostenere queste richieste. Ora ci spostiamo in Africa per parlare dell'azione europea in Congo. Donatella Rostagno, analista politica e segretario esecutivo di EURAC, Network Europeo per l'Africa Centrale, è intervenuta a Nessun Luogo è Lontano per denunciare occorre un'azione più incisiva dell'Europa. Noi siamo rimasti anche abbastanza delusi dalla reazione dell'Unione Europea, che secondo noi, anche accanto a quella degli Stati Uniti, è stata molto debole. E qui parlo di Unione Europea, perché su questo sono d'accordo con John, in questo momento per la complessità della situazione nei Kivu abbiamo bisogno di una reazione dell'Unione Europea e non di alcuni stati singoli. Questa reazione ha parlato appunto di preoccupazione per la situazione nell'est del Congo, però non è andata molto più in là di questo. Questa reazione debole, che io chiamerei debole, è stata seguita in realtà poi da tre reazioni un po' più forti dalla parte della Germania, della Gran Bretagna e dei Paesi Bassi, che hanno deciso anche loro, in seguito anche alla decisione degli Stati Uniti, di tagliare i fondi che erano destinati al sostegno del budget del Ruanda. Quindi da un lato questo è un segnale forte, se vuoi, da questi tre stati, dall'altro non è sufficiente fino a quando l'Unione Europea, in quanto partner privilegiato internazionale del Congo, si esprime, insomma. I paesi che si oppongono alla carbon tax, la tassa sulle emissioni di CO2 che l'Unione Europea vorrebbe applicare a tutte le compagnie aeree del mondo, si sono riuniti a Washington al Dipartimento ai Trasporti statunitense per studiare un'alternativa a livello globale che includa anche l'Unione Europea, a riportarlo la BBC. Mission X, allenati come un astronauta, è un programma che punta sull'attività fisica e su un'alimentazione più sana tra i giovani. Mission X rappresenta anche una delle finalità di Magistra, la missione dell'Agenzia Spaziale Europea, che vede coinvolto l'astronauta italiano Paolo Nespoli. Ascoltiamo proprio Paolo Nespoli, ospite di Nicoletta Carbone a Essere e Benessere, sull'importanza di insegnare ai bambini un corretto stile di vita. Bambini di oggi sono sostanzialmente sovrappeso, questo è sicuramente un grosso problema. Questo porta poi all'instaurarsi tutta una serie di problemi tipo di diabete, eccetera, eccetera, eccetera. Quando sono andati a vedere del perché questi sono sovrappeso, è saltato fuori che non si muovono più e mangiano scorrettamente. Quindi l'alimentazione e il movimento sono due cose di base a quale dovremmo stare un attimino attenti. Quindi giocare meno col computer forse o vedere e fare un pochino più di Sì. Tanto è vero che nello spazio abbiamo fatto una cosa che si chiama Mission X, train like an astronaut, ovvero non andare in treno come un astronauta ma addestrati come un astronauta, perché insomma noi in orbita stiamo attenti a quello che mangiamo e facciamo 2 ore di esercizio al giorno, fare cose che fanno in modo di mantenere questa macchina, questo motore in funzione. Se non gli diamo l'energia sufficiente necessaria per funzionare non funziona, se non lo facciamo funzionare si arrugginisce. D'altronde in orbita le cose vengono esasperate al massimo, anche perché col fatto della mancanza di peso ci sono dei problemi molto importanti per quanto riguarda la muscolatura, che perde di tono, perde di capacità, e lo scheletro, che viene addirittura dissolto, si scioglie in orbita a una velocità 10 volte superiore di quello che è l'osteoporosi sulla Terra. Quasi scherzando mi viene viene da scherzare, mi è venuta in mente questa cosa qualche settimana fa, è che oggi, dopo essere stato 6 mesi in orbita, il mio scheletro è 10 anni più vecchio di me. La Commissione europea lancia una campagna contro i giocattoli contraffatti o prodotti in violazione delle normative sulla sicurezza, una campagna che punta a coinvolgere produttori e consumatori. A presentarla ieri è stato il vicepresidente Antonio Tajani, responsabile per imprese e industria, che durante una conferenza stampa a Bruxelles ha presentato anche diversi tipi di giocattoli o d'oggetti per bambini a elevato rischio. Vogliamo difendere i nostri cittadini, i nostri bambini e anche le nostre imprese, ha detto Tajani. È tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.